Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sono le 22 passate da 47 minuti in questo preciso istante. Buonasera dal sottoscritto Agostino Spolaore, che assieme a Maurizio Calzavaro, o meglio io sono l'ospite suo questa sera. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Un ospite importante, che guida il programma praticamente. Certo, grazie. Allora, prima di tutto dati tecnici, poi presenteremo il gruppo. Allora, questa è Blu Radio Veneto, questa è la fascia serale che va in onda tutte le sere dalle 22:30 a seconda poi delle giornate, fino alle 24 con il live soprattutto. Le nostre frequenze 88 e 700 e 94 e 600 MHz in modulazione di frequenza. I nostri numeri telefonici, se ci volete contattare, allora... se volete chiamare qui in studio 049 875 6423, se invece volete mandare dei messaggi, mandare qualche domanda, fare qualche invito, qualcosa, insomma, questi personaggi, questi artisti che si susseguono nei vari live che facciamo ogni sera o quasi ogni sera, il nostro numero di cellulare è il 346 23 20 033. Potete ascoltarci in streaming ricordando che se andate nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, cliccando sotto la fascia rosa che vedete scritto streaming, c'è una freccia nera piccolina sulla sinistra, cliccando lì 24 ore su 24 c'è lo streaming audio della nostra emittente. E poi invece quando ci sono i live c'è la possibilità di vedere gli artisti tramite le nostre webcam collegandovi nel sito diretto a rockwave.tk, ma se andate nella recensione che facciamo noi ogni volta in merito all'ospite che abbiamo in studio, sotto c'è appunto la scritta streaming video, cliccando lì entrerete comunque nella pagina delle webcam e quindi comunque vedrete gli artisti in questione. Questa sera abbiamo un gruppo che arriva da Belluno, se non sbaglio, giusto? Ecco, si chiamano Non Voglio Che Clara e abbiamo in studio Fabio De Min e Igor De Paoli. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Buonasera. Buonasera ragazzi, avete fatto un buon viaggio praticamente? Sì, sì, certo. Senza problemi, è quello importante. E quante volte che ci vediamo qua, Fabio? È la seconda volta? Credo sia addirittura la terza. Ah, la terza volta. Dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che è la terza volta che Fabio, con molto piacere da parte mia e da tutta la redazione, viene qua a trovarci, perché c'è un motivo. Stasera presentiamo il nuovo album che è uscito recentemente. Un album importante perché dà una svolta. Hai cambiato la formazione, hai cambiato casa discografica e hai voluto dare una svolta, secondo me un album più di canzoni rispetto al precedente, ma è un mio parere, poi possiamo allargare il parere. Si chiama Dei Cani l'album nuovo, è uscito da poco, la formazione è stata cambiata, hai cambiato casa discografica, perché questo percorso diverso? Ma in realtà fa sempre parte dello stesso percorso, se per i dischi precedenti avevamo cercato di utilizzare strumentazioni diverse magari da quelle che trovavamo semplicemente in sala prova, in questo caso siamo voluti tornare ad una dimensione più live, più diretta, per cui si trovano meno orchestrazioni e un suono un po' più spesso. Più spesso, più sintesi praticamente, più compatto possiamo dire, meno orchestrazioni, però ci sono anche delle orchestrazioni rispetto al precedente, meno sì, probabilmente sì. Diciamo che sono stati sostituiti un po' gli strumenti, poi alla fine... Il linguaggio è lo stesso, o meglio, il messaggio è lo stesso, cambia il linguaggio che è appunto dato dagli strumenti diversi. Certo, tu il linguaggio porta avanti sempre al solito il discorso che hai cominciato con l'EP del 2004, mi pare, o del Tivoli, e poi hai proseguito col disco che prendeva il nome della band e fino ad arrivato a questo. E secondo me è un percorso molto interessante, positivo, difficile ma positivo. Una musica la vostra assolutamente atipica rispetto a tante altre band, come giustamente è stato scritto da numerose recensioni positive, come in questo disco nuovo. Tanti riferimenti, tante canzoni, tante voglie di fare, ma soprattutto la musica tua, il tuo sound, che è mutato, sì, ma non fino a un certo punto. La linea di continuità esiste, c'è sempre stata. Ma alla fine uno cerca di scrivere più o meno sempre la stessa canzone, cioè cerca di scrivere così la canzone ideale o la canzone perfetta. Poi ripeto, comunque noi siamo attivi da una decina d'anni, da tanti anni, ci sono tre dischi alle spalle, per cui è anche naturale che ci sia un cambiamento oltre che umano, certo, anche, certo, chiaramente artistico. Sì. E io ho letto sulla recensione una recensione che Dei cani è il titolo che porta idealmente ai dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria e anche a Majakovskij, praticamente. Questo è il titolo, se possiamo dire così, se sei d'accordo. Sì, lo è, o meglio, il disco ha avuto una gestazione piuttosto lunga. Sì. Quattro anni per questo, esattamente, per questo, beh, in realtà sono due, perché comunque eravamo stati in giro per la promozione del disco precedente per un po'. E, questo ha fatto sì che il fatto di stare sopra i pezzi per molto tempo ha fatto sì che si sviluppassero diversi piani narrativi e anche diversi punti di vista su quello che stavo scrivendo. E, mi sono affezionato alla poesia di Majakovskij, quindi quella potrebbe essere una delle chiavi di lettura. C'è una sorta di imprecazione al fatto anche in Dei cani, una sorta di ribellione al fatto, insomma, diciamo che è tutto, sì, sono diverse chiavi di lettura per raccontare in realtà la stessa storia. Sei stato, hai prodotto il disco assieme a Giulio Ragno Favero, lo conosciamo tutti, è di Padova, Teatro degli Orrori, One Dimension Man, quindi una produzione un po' particolare, tosta ma ben fatta secondo me, con delle sonorità, qualcuno ha parlato dei Spike Rolls, qualcuno ha parlato di musica inglese raffinata, io sono d'accordo con loro praticamente. Perché hai deciso, hai trovato Giulio, hai avuto subito un punto in comune con Giulio, mi sei trovato subito praticamente. Sì, beh, Giulio lo conosco da diversi anni, lo stimo molto come artista, vabbè, come poi ovviamente, ecco, come amico, sì, certamente. Certo. La scelta è caduta su di lui praticamente subito, cioè nel momento in cui abbiamo deciso di affidare il lavoro ad un'altra persona, la prima scelta è stata Giulio, perché mi è sempre piaciuto molto, credo sia un artista e un produttore veramente completo, e credo sia stato anche bravo nel cogliere quegli aspetti che magari inizialmente erano più nascosti. Sì, più nascosti, esatto, sì. E così noi gli abbiamo dato carta bianca e poi alla fine si sono ritrovati esattamente in accordo praticamente su tutto quello che lui stava facendo. Per cui. Certamente. Potresti dire la nuova formazione, Fabio De Mensa e te, arrangia e canta praticamente? La nuova formazione è composta da, oltre che ovviamente da me, da Matteo Visigalli, che è un po' l'altra metà musicale. Quantomeno è l'altro componente longevo del gruppo. E poi ci sono Igor De Paoli, che è qua presente stasera, e Marcello Battelli. Praticamente due nuovi e due che avevano già fatto un percorso. Benissimo, cosa dice Agostino? Apriamo la nostra finestra come sempre, quindi facciamo sentire un pezzo che i ragazzi hanno scelto da disco soprattutto. Cosa hai scelto, Fabio? Ho scelto l'opening track, che è La Mareggiata del 66, che è un pezzo molto bello secondo me, lo sentiamo e poi ne parliamo assieme. Ok. Se ti verrò a cercare. saprò spiegare che ognuno corre per sé e che la fatica per riaverti qui non conta niente. Io amo la terra e ho da correre fino a stancarmi per dormire bene. Siamo in diretta qui a Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio e con soprattutto il gruppo Non Voglio che è Clara, che ci viene a presentare il loro nuovo CD che si chiama Dei Cani. Sì, abbiamo parlato, allora abbiamo sentito il primo pezzo, che il primo pezzo è sempre un pezzo importante perché apre il disco e non soltanto apre il disco, apre anche la dimensione sonora del disco. E a me è piaciuto moltissimo il primo pezzo, soprattutto per questa barriera di chitarra che dura poco, poi si rallenta molto, entri con la voce, però queste barriere di chitarra mi ricordava i Spacchellos, ecco per quello ho citato nella nostra recensione di Spacchellos. L'idea del pezzo come è nata, se ti ricordi, Fabio, attraverso, grazie all'aiuto di Giulio e anche grazie all'aiuto degli altri, chiaramente. Dunque, rispetto al disco precedente, questo disco ha avuto un lavoro maggiore a livello di gruppo, quantomeno nel rendere i pezzi nostri, nel senso che nostri nel senso di viverli maggiormente, perché abbiamo iniziato ad ascoltare i provini di questo disco due anni fa. E quindi comunque all'interno delle nostre teste si è sempre cercato così di pensare a una dimensione ideale per il disco. Giulio è intervenuto più tardi. E comunque questo è uno dei casi di cui ti dicevo prima, in cui è riuscito a valorizzare appunto una serie di elementi che magari erano già nella scrittura, ma magari erano più nascosti o davamo loro meno importanza. Cioè, te e Matteo avevate già steso qualcosa di questo pezzo, e non soltanto di questo pezzo, dell'idea dell'album c'era già fra te e Matteo praticamente. Beh, non solo fra me e Matteo, perché comunque poi i collaboratori sono stati molteplici. Per questo disco io ho lavorato presentando dei provini al resto del gruppo. Ho capito. Il resto del gruppo è iniziato quasi da ascoltatore, fino a far proprie le canzoni e quindi poi ritrovarsi insieme a suonarle, ad arrangiarle. Poi c'è una cosa interessante, ho letto sempre nella presentazione, che ci sono, per esempio, il singolo che poi sentiremo è stato coprodotto, è stato arrangiato dai Port Royal, che è un gruppo, si dice giustamente, di elettronico già genovese. Come mai questo connubio fra te e l'elettronica genovese di Port Royal? Perché era un po' la direzione che stava prendendo il pezzo. Il nostro approccio con l'elettronica, quantomeno il mio nel momento in cui stavo in studio, è piuttosto naif, nel senso che... Accennato, possiamo dire, appena. Sì, ma ha fatto anche di cose non propriamente elettroniche, non molto ortodosso. Io uso dei pedalini, dei sintetizzatori, ci passo attraverso. Non so se si faccia così, lo faccio perché mi piace. Quando si è trattato poi di andare a chiudere il pezzo, abbiamo pensato, ma perché non chiamiamo qualcuno che effettivamente quelle cose le sa usare e le usa bene? E il risultato è decisamente interessante. Trascina, è un pezzo trascinante. Qualcuno potrebbe dire il singolo potenziale, scusa ancora a dire il singolo potenziale, sicuramente un pezzo che trascina, innanzitutto è predisposto alla traccia numero 3, che non è male neanche quella, perché il discorso delle tracce, predisporre i numeri delle tracce, non è una cosa a caso, è una cosa voluta, caso, certo che no, assolutamente voluta, chiaramente. Sono le 23.01 e come sempre qui siamo a Rockway e la cosa fondamentale di Rockway è suonare. Cosa cominciamo a suonare, cosa volete far sentire? Allora, in realtà non ci abbiamo pensato, quindi devo un attimo improvvisare. Direi che potremmo partire con l'Inconsolabile. Ah, bellissimo, bellissimo, ok. Che è un pezzo? Che è un pezzo? Che è un pezzo? Che pezzo è? No, no, Lo fanno vogliamo. suonare, lo fanno Ah, suonare. sì, no, ma volevo dire, volevo, lo facciamo spiegare Sì, un po'. sì, dai, dai. Allora, voglio spiegare un momento, Sì, giustamente, sì. qualche secondo. Oh, anche questo mi coglie. Allora, facciamo così. Va bene, siamo pronti, siamo Lo pronti. Lo fai Okay. sentire e poi ne Poi ne parliamo dopo. parliamo. Ok. Ok. Blu Radio Veneto. Che è un pezzo bellissimo. Dici, ma tutti i pezzi dell'album sono bellissimi, secondo me. Forse mi perderò durante il viaggio. Per strade dove lecce e la pioggia sono le nebbie. Forse non dormirò per il pensiero. Ma negli anni, negli acciacchi mi spaventano, mi capisci? Qui si dice che fu per amore, ma io lo so, ciò che ho pianto era una stagione della vita che è finita già. E forse invecchierò con le mie ragioni. E mi consola che nessuno in questo secolo ami qualcuno. Qui si dice che fu per amore, ma io lo so, ciò che ho pianto era una stagione della vita che è finita. Ecco, io ho sentito, abbiamo sentito assieme questo pezzo. L'avevo, io nella recensione avevo scritto che può essere un secondo singolo potenziale dopo le guerre. Non so se sei d'accordo oppure no. Soprattutto per il ritornello. Ripeto, secondo me questo disco ha tanti positivi ritornelli. Non so se sei d'accordo Fabio o d'accordo Igor, che adesso parlerà anche lui. Sì, anche perché non sappiamo in che in realtà era una delle opzioni possibili, in effetti. Poi avete scelto l'altro, però avete scelto momentaneamente l'altro. Poi. No, abbiamo in realtà c'è poca scelta perché i singoli non esistono più. Esattamente, i veri ipoteticamente singoli. Possiamo dire. Vabbè. Sì, però diciamo che se la scelta dovesse, se dovessimo scegliere dei singoli, questo sarebbe fra i primi tre comunque. Sì, dopo quello la traccia numero tre, questa traccia molto, ripeto, è proprio bella perché è molto accattivante nel senso positivo del termine. Pezzo pop, tra virgolette, anche questo, se sì, mi è sì, consentito. No, assolutamente. Igor, cosa dici te? Assolutamente sì. Sei d'accordo? E l'uso, tu qui suona una batteria ridotta, chiaramente. L'uso della batteria nella musica di Fabio e Company, come la vedi, come la senti? Un po' come l'ho suonata. Cioè, una fase ritmica, anche se non è mai stata accentuata nella musica dei Non Voglio Che Clara, secondo me. Beh, cosa dici? Diciamo che anche qui si ritorna al discorso fatto prima sì. con dell'approccio in studio, il fatto di lavorare il disco in una maniera forse anche più ortodossa, cioè il sì. fatto di stare in sala prove e provare i pezzi, cosa che per i dischi precedenti, anche per una questione di scelta, quantomeno per il secondo disco, non era stato fatto. Volevamo entrare in studio e lavorare il disco in studio come le grandi produzioni, in un certo, certo, senso. Certo, ho capito. Però facendo tutto in casa, l'economia, tra virgolette, insomma, in casa, sì, molto tra virgolette. Però comunque con un approccio anche lì abbastanza naif, con uno studio, cioè con l'uso delle attrezzature. In questo caso appunto abbiamo cercato di dare un maggior spazio a quello che è la vita del gruppo, a quello che è il fatto di suonare insieme e di creare un suono insieme. Quindi per creare questo suono avete democraticamente discusso, avete trovato un punto di unione? No, democraticamente direi di no. Ah, perfetto. In che senso no? No, nel senso che credo che all'interno di un gruppo non esistano tanto, cioè non si possa portare un concetto come la democrazia, che poi è un concetto politico. Certo. Ma che valgono invece una serie di equilibri. In fondo nessuno nega lo spazio di Ringo Starr. Tuttavia i Beatles erano tutt'altro che un gruppo democratico. Sono d'accordo con te. Basava su una... su un duopolio praticamente. Esattamente. John e Paul. Sono Io credo che ognuno abbia... Poi ovviamente un musicista... abbia la possibilità di ritrovare il suo spazio all'interno di un gruppo lasciando gli equilibri come sono in un certo senso, no? Certo, però è uscito bene secondo me il disco, ripeto, 4 anni, sì, hai detto che ci hai messo 4 anni, 2 anni qualcosa era già pronto, però è stata una bella stesura nonostante tutto, nonostante la difficoltà. Tutti i dischi hanno difficoltà, perché vuol dire che sono amati, se no... No, beh, la difficoltà fa parte del lavoro. Certo. Quindi se non sono amati non è difficile. E la sofferenza anche, no? Cioè il fatto di comunque arrivare ad odiare quasi la cosa che stai facendo vuol dire che comunque ci stai mettendo una certa passione. Certo, adesso abbiamo in dimensione assolutamente acustica, siete in 2 dimensioni, dei 4, come viene dal vivo, vi fate leggermente più elettrici il discorso oppure sempre una dimensione pseudoacustica? No, è decisamente più elettrica. Decisamente più elettrica, e Giulio Favero sa come... affondare su certe cose praticamente, decisamente più elettrico, e quindi date corda, date forza praticamente, sì, nei live, quindi una bella batteria, un bel basso, una bella chitarra, insomma la tua voce, che è una voce molto, qualche momento filtrata, volutamente filtrata, è bella, una bella sensazione. Come mai questa idea del filtrare la voce? Vabbè, queste sono cose che ha portato Giulio e che a me è piaciuta molto, perché comunque mi ricordava anche alcune esperienze passate, tipo Lucio Battisti in Anima Latina, per esempio. Certo, che finisce con nascondere la voce all'interno dei pezzi. E così mi piaceva comunque il fatto che con una voce effettata o filtrata o riverberata, eccetera, crei un piano diverso, stacchi la voce dal resto e sembra che ci sia una voce fuori campo, in un certo senso. Quindi c'è la musica, c'è una voce fuori campo che racconta le storie. Certo, hai citato giustamente Anima Latina, Agostino Anima Latina è un disco, possiamo dire, anche sperimentale di Battisti in alcuni momenti. Sì, c'è una canzone che piace molto, che è Due Mondi dentro. È Due Mondi, è un'altra canzone sperimentale, anche è stato il singolo di una volta, però è una canzone decisamente sperimentale. Il disco è abbastanza sperimentale, sono d'accordo con te. Lucio era molto più avanti rispetto a tanti altri, cosa dici Fabio? Ti dirò che in generale in quel periodo sarà molto più avanti di quanto non lo siamo adesso proporzionalmente. Ho capito, sì. Ho capito, benissimo. Ok, 23:10, facciamo sentire un altro pezzo da disco, cosa dici Agostino? Beh, se loro hanno voglia di suonare... ci riposiamo un secondo, facendo sentire un pezzo da disco, dopo ne parliamo assieme. Che pezzo hai scelto? Un'altra traccia? Beh, ne abbiamo parlato, per cui... Guerre. Ci ascoltiamo le guerre. Esattamente. Ok. Quest'anno a farci paura, e non saranno gli scontri a tenerci distanti, e non saranno le sigarette ad ammalarci, o Gesù Cristo che corra veloce a salvarci. ma saranno giorni spesi senza sconti, saranno giorni vuoti che non rendi, il tuo pensiero che mi lascia stanco, e tutto quello che ora vai perdendo, e non saranno le guerre quest'anno distanti nelle partenze, saranno mai più intelligenti, ma saranno giorni a vuoto che non rendi, saranno giorni spesi senza sconti, il tuo pensiero che sarà il ritratto della miseria a confondersi con la miseria del ritratto. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Oggi è mercoledì 23 marzo 2011, sono le 23.14, siamo in diretta qui con la fascia serale chiamata Rock Wave, con la voce di Agostino in questo momento, ma soprattutto con quella di Maurizio che sta cercando di capire, di farvi conoscere ancora di più questo gruppo che ci viene da Belluno, diciamo, si chiamano Non Voglio Che Clara, musica bellissima come sempre qui a Blu Radio Veneto. Vi ricordo il nostro numero telefonico in studio, se ci volete chiamare è lo 049 875 6423, se invece volete mandare qualche messaggio, qualche sms a questa fantastica band, vi ricordo il 346 23 20 0 33. Sì, nella recensione Fabio abbiamo scritto è un brano che si ascolta con facilità, secondo noi, una melodia raffinata ma fruibile immediatamente, questo è il discorso, non dico la novità, ma è il punto a favore, una melodia fruibile immediatamente, almeno nel pezzo Le Guerre, secondo me. Io l'ho sentita così, non so se sei d'accordo, se siete d'accordo. Diciamo che è il pezzo che... più pop, tra virgolette. In effetti, per tornare al discorso dei singoli di prima, sarebbe la nostra prima scelta. Ok, è una scelta azzeccata. C'è stata un po' di difficoltà, sempre dal punto di vista dei momenti, per creare l'amalgama e il suono al di là dell'apporto di Favero in questo pezzo, soprattutto in questo pezzo. Forse questo pezzo era addirittura il pezzo più definito del disco. Quello che credo che in fase di collaborazione con Giulio abbia è quello che è rimasto più integro. Ho capito, cioè non ci sono stati cambiamenti, tanti cambiamenti avevate già pensato in una certa maniera praticamente. Sì, ancora prima della, tra l'altro dell'arrivo dei Port Royal, nel senso che sì, i Port Royal hanno dato però un bel contributo. Assolutamente, sì, sì. Diciamo che il pezzo stava andando in quella direzione e quindi poi si è sviluppato in maniera abbastanza naturale. Chiaramente l'apporto di Port Royal prima e di Giulio in seguito sono, sì, hanno, ha rafforzato, sono serviti a definire, certo, esattamente. Quindi tu hai parlato di elettronica, che tu la usi in una certa maniera, i Port Royal l'hanno leggermente più accentuata, ma nel senso positivo, non dando oltre certe cose, però rimanendo sempre in un certo ambito, in un certo limite, una certa entità. Sì, sì, sono riusciti a chiudere il cerchio senza stravolgere quella che era la natura del pezzo. E chiudendo il cerchio hanno dato il brio al pezzo, che rimane in testa, secondo me. È una cosa positiva. Al di là della traccia numero 3, importante, perché siamo arrivati quasi alla metà. E rimane in testa, e questo non è una cosa semplice. Fare un pezzo che rimane in testa, e non un pezzo banale, non è mica una cosa facile, secondo me. Cosa dici? O cosa dite? No, credo di no. Credo che sia una delle sfide, no? Esatto, una delle sfide. A scrivere un qualcosa che comunque non sia buttato così volutamente, non sia banale, se vogliamo usare questo aggettivo. Esattamente. Ok, 23 e 17, tu te lo ricordi, ma Igor non se lo ricorda perché non c'era all'epoca. Agostino lo sa. In questo momento siamo un po' più avanti, di solito lo facciamo alle 23 perché per motivi tecnici sono le 23 e 18. Facciamo un piccolo indovinello. I tre dischi da portare su un'isola deserta. Te lo ricordi questo giochetto? No, fortunatamente me l'ho dimenticato. Molto bene. Infatti, io sapevo che tu l'hai dimenticato. Maurizio, ho visto una faccia quasi terrorizzata da parte di Fabio. Aveva paura. Che ma cavolo di domanda mi fa? Io hanno una cultura musicale senza problemi. Quindi sì, non sì, ci sono problemi per voi. No, ma non stavo mettendo in dubbio questo. Sì, sì. Avevano paura chissà che domanda di tu li facessi. Questo è il giochetto. Non è un giochetto, è un modo per cercare qualche aggancio musicale. Ce ne sono tanti, da parte tua e da parte di Igor. Velocemente, quando vuoi, come vuoi, ti puoi dire, poi noi cercheremo di allargarli o restringerli al di là. Non è per la verità difficilissimo, ti direi Sabbath, Bloody Sabbath, dei Black Sabbath. Come mai Black Sabbath da te? Perché sono uno dei miei gruppi preferiti, per esempio. Paranoid. E non Paranoid, perché esatto. Noi siamo un po' più vecchi di te, abbiamo subito citato Paranoid. No, perché penso che Sabbath, Bloody Sabbath abbia in effetti sia un po' la summa dei loro lavori precedenti, e siano riusciti a definire un'atmosfera quasi unica. Insomma, è un disco estremamente stratificato, estremamente pieno di cose, nonostante sia comunque suonato con gli stessi strumenti dei dischi precedenti. Ho capito. Lo trovo un lavoro veramente ricco e importante. Devo dirti gli altri due, immagino. Esattamente. Ti direi in questo momento Islands dei King Crimson. Dunque, sono 5 anni che facciamo Rock Wave, è la prima volta in assoluto che uno cita Highlands di King Crimson. Sono molto d'accordo, perché c'è quel sax meraviglioso in 9 minuti e 17, mi fa alzare i piedi. Ma ti ricordi anche i secondi tu? No, un pezzo che durava 9 minuti e 17, era meraviglioso, Highlands di King Crimson. Finiva con Home Highlands, poi le cose sono cambiate perché Flip ha voluto sperimentare al 100%. Quello era un disco favoloso. Io sono ancorato ancora ai ricordi di In the Court da Crimson King. Però quello è un'evoluzione completa, certo. Anche della copertina meravigliosa. Sì, esatto. Tutte le copertine di King Crimson prima erano meravigliose. Bello, sono molto soddisfatto che tu abbia citato Highlands di King Crimson. Vedi? Tante volte le sorprese. Sono poi piacevoli, sempre sono piacevoli. E come terzo incomodo, non incomodo, come terzo disco, o terzo motivo? Come terzo disco, ovviamente non ti sto citando dei dischi che sto ascoltando, che sto apprezzando in questo periodo. Benissimo. E uno di questi è Herman di Paolo Benvenu, che è il nuovo disco di Paolo Benvenu. Esatto, sì. E che credo sia il miglior disco che ha fatto, almeno per quanto mi riguarda. E anche quello è un disco che si merita tutta un'isola, perché è pieno di cose. Mm-hmm. E va ascoltato con la dovuta attenzione. C'è un personaggio di grande importanza, il cosiddetto indie italiano, secondo me, o anche oltre dell'indie italiano. Una volta era indie, non è prettamente indie, va oltre l'indie, è molto positivo. Igor, tocca a te adesso, vedi che qualcosa dici anche a te stasera. Ok. ti ho lasciato quasi dieci minuti minuti per pensare. Mi è venuta solo in mente la discografia dei Sigur Rós. Ah, perfetto. Come mai Sigur Rós? Hai citato i Sigur Rós? Vuoi citare i Sigur Rós? Perché per me è un gruppo, direi, fondamentale. Mm. Ha fatto tante cose interessanti, sì. Sì. Anche sì, quel, dall'inizio adesso, che è un po' più pop adesso, secondo me. Forse perché ha scalato le classifiche europee, non so. Malignamente qualcuno dice. Sì, non mi porterai forse l'ultimo di Jones. Mm. Ecco. Però... Vabbè. Okay. Okay, purtroppo hai citato sui Sigur Rós. Ne hanno fatti più di tre, sì, va bene. Sì. Nell'ambito. Ok, sono 23 e 22. Abbiamo mandato nell'isola deserta delle cose meravigliose. Ripeto, King Crimson Islands, che è una favola assoluta. E i Sigur Rós. E i Sigur Rós, un'altra favola. La favola. I Highlands è una favola di un certo periodo di tempo. E i Sigur Rós è una favola più moderna, praticamente. Ma sai che noi quando vogliamo insultare. Quando ci passa poco in furgone, vogliamo insultare Igor, basta semplicemente parlare male di Sigur Rós. Ah, perfetto, dopo si arrabbia. Sì, si arrabbia tantissimo. Esattamente. Benissimo. Dunque, sono 23-22. Io amo il live, Maurizio. Ah, facciamo live. Ti dispiace? No, assolutamente, Fabio. Assolutamente. Cosa ci fanno ascoltare adesso? Ti risulta, sai qualcosa? Facciamo un pezzo di Black Sabbath. Ah, un bello! Pezzo di Black Sabbath. Una cover di Black Sabbath, bellissimo. Wow. Quello che volete voi. I Black Sabbath dipendenti sono tanti, me compreso, almeno in certi dischi, saranno molto contenti. Okay. Assolutamente. Ok. Tutto dal vivo, si stanno preparando. Ci vuole un minutino per... Ma è così, è bello così, è tutto dal vivo, non c'è niente di registrato, tutto live, la gente con le telecamere ti sta vedendo in ogni caso, quindi se vede che è tutto dal vivo. Last goodbye. Now Now all my days I fill with tears. Wish I could go back and spend these years. I'm going through changes. I'm going through Che bello sto pezzo, bello bello. Black Sabbath Docet nella versione di Non voglio che Clara, bella versione, versione assolutamente striminzita nel senso di solo chitarra e spazzolata con la batteria, un po' di spazzole, però molto bella, molto molto interessante, acustica, ma non soltanto acustica, una bella, cioè una bella propensione da parte di Fabio, una certa grinta nonostante tutto, vero Fabio? Questo... Fabio sta chiaramente molto caldo qui. Questo è live, vi ricordo che siamo tutti completamente dal vivo, sono le 23:27 di questo mercoledì 23 marzo 2011 con Maurizio Calzavare, con Agostino alla regia, con i Non voglio che Clara. Vi ricordo sempre comunque gli sms che magari potrebbe interessarvi, mandare qualche messaggio, qualche saluto, qualcosa a questa band, 346 23 20 0 33. No, abbiamo citato però il titolo del pezzo, se vuoi ripetere. Era Changes. Perfetto. Ti ricordi anche l'album dei Black Sabbath? Volume 4. Benissimo, vedi. Perfetto, sei proprio un fan giusto dei Black Sabbath, sai tutto dei Black Sabbath. Ok, una bella cosa. Io non lo sapevo, ragazzi, i nostri ascoltatori, io non sapevo che Fabio e Igor avessero deciso di fare una cover di Black Sabbath. Io sono molto contento, molto soddisfatto. È la prima volta in assoluto che sento una cover di, nei tanti concerti che abbiamo fatto, una cover di Black Sabbath. E perché no? È fatta molto bene e sono completamente soddisfatto. Cosa dici, Agostino? Sì, anche perché io, se devo tornare indietro con il discorso che ha fatto qualche istante fa Fabio, mi sembra strano che un ragazzo giovane ami moltissimo la musica rock degli anni 60-70, perché praticamente i Black Sabbath sono quegli anni lì, insomma, e riscoprire che lui ama proprio quel periodo lì, con queste sonorità particolari, un po' a volte anche dure, secondo me, perché i Black Sabbath non erano semplici, mentre i King Crimson erano un po' forse più melodici. Mi consenti questa considerazione, Fabio? Beh, oddio, in realtà i King Crimson erano stortissimi. Sicuramente più melodici, ma anche più complessi da un punto di vista compositivo. I Black Sabbath comunque erano abbastanza semplici nelle soluzioni. Ma una spiegazione a quello che hai detto prima c'è, ed è che io non sono giovane. Cioè, non sono così giovane. Non sei come noi, come me, ma come Maurizio. Beh, non alla nostra età, sicuramente. Decisamente. Sì, sì. Sei sempre giovane rispetto sempre a me e a Agostino, soprattutto a me. Agostino è più giovane di me. Sì, ma non di tanto. Nelle recensioni che ho letto hanno citato, non so se sei d'accordo, Sofia. Io sono d'accordo, e da un punto di vista italiano, Sergio Endrigo e Luigi Tenco, oltre a Battisti che tu hai citato, cosa ne pensi di queste citazioni? Sono citazioni e basta, chiaramente, e chiudono e aprono là il discorso. La musica è assolutamente vostra. Vabbè, Sofia lo... Sofia è molto, insomma, un gruppo molto, molto interessante. Sofia lo conosco, cioè li conosco, ho avuto modo anche di vederli a Dublino, di passare mezza serata con Robin Proper Shepherd. Genio assoluto, secondo me. E ubriachissimo. Perfetto, questo non lo sapevo, ma in un caso è sempre un genio assoluto. E mentre, vabbè, Endrigo è una passione vera. L'avevi già anche nei dischi precedenti. Sì, assolutamente, Endrigo è fra i miei autori italiani preferiti. Lo è anche Tenco, anche se diciamo che Tenco è stato più, non so, materia di studio a livello di curiosità. Lo ritengo uno dei veramente dei più grandi. Tuttavia, se dovessi mettermi un disco a casa, sceglierei Endrigo. Endrigo, che produzione di Endrigo? Quella classica oppure quella produzione non propriamente conosciuta degli ultimi anni? quella classica e quella che poi gli ha fatto seguito almeno fino al metà anni 70. Capito. Io ricordo, a me piace particolarmente un pezzo di Andrew che poi hanno fatto anche gli Aphrodite Childs a Sanremo, Lontano dagli occhi, Lontano dal cuore, che appartiene alla, al periodo, diciamo, periodo d'oro, classico, però un classico. I pezzi di Indrigo, il periodo classico, sono d'accordo, ma avevano sempre una caratteristica, quella limatura, se mi è consentito il termine, quel modo di fare, quel modo di scrivere, è un po' diverso dagli altri cantautori. Sì. Ma lui è assolutamente strepitoso nell'utilizzare le stesse parole che usano gli altri, ma farlo con un'efficacia. Ecco, hai detto, una cosa giusta. Sì. Quel pezzo che hai citato tu prima è un pezzo meraviglioso. E nel periodo successivo fece cose che poi non si ricorda nessuno, ma ci sono dei pezzi incredibili come Le parole dell'addio. Sì, vero, certo. E poi ce ne sono diversi. Fece anche qualche Sanremo in quel periodo con pezzi molto belli. È vero. Però rimase un po' nascosto. È un artista tutto tondo, è stato riscoperto, tra virgolette, anche grazie a Battiato, che ha ripreso dei pezzi suoi. Era un grande personaggio, un grande artista. Io l'ho intervistato una delle ultime volte, cioè qualche anno fa, prima che purtroppo morisse, e ci parlava pure di questo modo che aveva di costruire i pezzi. Dava una chiave di lettura particolare, sua, assolutamente sua. Ed era positivo. Ma io poi devo raccontarti anche un paio di aneddoti. Beh, uno, dimmi, vai. Molto interessante questo che stai dicendo. Il fatto, vabbè, Endrigo l'ho conosciuto personalmente, tra l'altro a Faenza, credo fosse l'anno prima della sua scomparsa. E mentre un paio d'anni fa la famiglia, tramite poi Universal, certo, mi chiese invece di musicare un testo di Endrigo, quindi mi diede un paio di testi inediti di Endrigo che poi sarebbero stati portati a Sanremo da un artista. E fu un momento estremamente emozionante, perché riconoscevo in quei testi poi la scrittura, quella sua, e il fatto che ci fossi io a suonarli o a cercare di dargli a scriverci una canzone, insomma, ti ha dato emozione, un momento forte. Abbastanza forte, insomma. Certo, è una cosa bellissima, secondo me. Ok, 23:34, cosa facciamo, Agostino? Un altro pezzo da disco? Vuoi fare che i ragazzi... Un altro pezzo, mi ha detto di sì. Ok, pezzo del disco, che traccia hai scelto praticamente? Abbiamo scelto L'amore al tempo del carosello. Ah, che è molto bella anche questa. Adesso la sentiamo e poi ne parliamo un momento, ok? Ok. Che tu avresti un giorno rinunciato per non vedermi più. Era nei piani, era un rischio in fondo da correre. Ma com'è difficile buttare tutto e non pensarci più. Questa caduta di stile, il cherosene e la fretta. Oddio, amore mio, addio, se fossi al posto suo, se bruciassi anch'io, se cambiassi te. Piani era rischio giusto da prendere. Oddio, amore mio, addio, se fosse posto tuo, se ne scappassi anch'io, forse lei non si ricorderebbe. SMS 346 2320 033 Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ancora circa 30 minuti con i Non Voglio Che Clara, con Fabio De Min e Igor De Paoli, che sono venuti a trovarci da quella bella città che si chiama Belluno, ovviamente, e ci stanno facendo ascoltare il loro ultimo CD che si chiama Dei Cani. Come mai sono passati così tanti anni, Fabio, dal precedente disco? Ma perché in seguito al disco precedente siamo rimasti in giro un tempo considerevolmente lungo, se si pensa a quanto veloce adesso vanno un po' queste cose, appunto in giro per promuovere il disco, quindi c'è stato un eco piuttosto lungo, siamo stati in giro un anno e mezzo. Poi io onestamente mi sono preso una piccola pausetta, ho fatto altre cose, ho lavorato con altri band, ho curato altre produzioni e con calma poi ci siamo, appena abbiamo visto che c'era una situazione favorevole all'uscita del disco nuovo, ci siamo messi al lavoro. Questo è il pezzo che abbiamo sentito, è la traccia numero 9, L'amore al tempo del cherosene, una traccia come un titolo abbastanza letterario, perché mi viene in mente l'amore al tempo di un famoso scrittore del Colera, esattamente. Non c'è nessuna attinenza, il testo è molto bello, anche la musica è molto bella, molto sofferta, la canti con un certo pathos, secondo me. Sì, perché sì, almeno il tentativo era quello, poi non spetta a me ovviamente dire se io dico, ho detto io, okay. Mi assumo tutta la responsabilità che ho detto. No, è che te lo stavo per confermare, non era carino. No, per la storia che racconto necessitava probabilmente di un tipo di atmosfera di questo tipo, e per arrivarci abbiamo anche usato uno stratagemma in studio, sì, che è quello di, come dire, in qualche modo in quella canzone si parla di privazione, sì, e in studio ci siamo privati di tutti gli strumenti che avevamo registrato, mantenendo soltanto il pianoforte e la batteria. Esatto, un piano che è un certo tipo, un piano di un certo tipo, un certo suono dal piano. Non posso dire, mi so se sei d'accordo, un po' tenebroso, un po' oscuro, leggermente dark, leggermente, se può dire, se mi posso sbilanciare in questa maniera. Sì, beh, il pezzo ha una sua scurezza, si può dire così. Sì, è dovuto ovviamente a quei pochi, certo, timbri che ci sono. Certamente, quindi un'idea che doveva essere così e doveva essere un po' strimitito, cioè scheletrico, ecco, forse scheletrico è la parola giusta, perché quel pianoforte era lo scheletro di un'altra cosa, perfetto. Era un arrangiamento molto più complesso che poi è stato tagliuzzato proprio per arrivare a questo. Ok, dobbiamo salutare un secondo Alberto Prisco, che è il nostro curatore e direttore artistico, che stasera, grazie alla sua volontà, siete qua stasera, grazie a lui. Salutiamo anche la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che sono tre nostre affezionate ascoltatrici, che amano particolarmente la Rockwave e tutti gli altri programmi della radio, chiaramente, ma particolarmente la fascia di Rockwave. E salutiamo anche tutte le persone che sono collegate con le webcam, che sono tantissime. Bene. Io ve lo confermo. E io ve lo ricordo, lo streaming video, basta andare sulla recensione che ha fatto Maurizio con la redazione, cliccando su diretta streaming video potete vedere gli artisti che sono qui questa sera, cioè Fabio e Igor, che stanno proponendo le loro canzoni. E c'è anche lo streaming audio, ovviamente, ricordandolo sempre che andando nel sito dell'emittente www.bluradioveneto.it, cliccando sotto la freccia sulla freccia nera sotto la scritta streaming. Questo nuovo indirizzo, se mi è consentito il termine, questa evoluzione, l'evoluzione che continuerà poi, non voglio che Clara, proseguiranno su questo percorso, secondo te, Fabio, oppure Igor, oppure è stata solo un episodio, anche se non è un episodio, è l'evoluzione, cioè continuerà così il sound vostro? Ma un conto è la scrittura e un conto è poi diciamo la realizzazione concreta di la scrittura pezzi. Chiaramente, idealmente la scrittura tua continua, c'è poco da dire. Sì, ma nel senso che ci piace abbinare appunto a una questione più cantautorale o comunque più legata alla scrittura delle canzoni in sé, anche una fase di ricerca che nei dischi precedenti si era tradotta con delle orchestrazioni, con un'orchestra, delle partiture, eccetera. In questo caso si è tradotta appunto con l'inserimento di altri di collaboratori e di sonorità magari un po' più dirette e più intense. La ricerca continuerà sicuramente, cioè questo tipo di lavoro è quello che è forse l'unico che so anche fare, il fatto di appunto di scrivere dei pezzi e poi cercare di dargli un vestito. E quindi non so dirti come suonerà il prossimo disco. Certo, ci stiamo divertendo molto a suonarlo dal vivo. Ecco, importante. Per cui ne terremo sicuramente conto. E suonare dal vivo questo nuovo lavoro comporta anche delle accelerazioni, cioè degli arrangiamenti, degli stravolgimenti nei temi dei 10 pezzi, che siano, pardon, degli 11 pezzi, allargate i pezzi o state fedeli agli stessi? Dal vivo, sempre dal vivo. Ma c'è un'inedita rispetto ai lavori precedenti, c'è un'inedita predisposizione all'improvvisazione. Perfetto. E quindi diciamo che i pezzi rimangono, almeno alcuni di questi, quelli che si prestano a questo tipo di lavoro, rimangono un po' più aperti e inconclusi e si chiudono soltanto nel momento in cui noi andiamo a suonare dal vivo, insomma. Ho capito. Fabio, diamo qualche notizia tecnica, cioè nel senso, dove si trova il disco, il tuo sito, cioè il vostro sito, date di qualche eventuale concerto? Beh, il disco si trova fortunatamente in tutti i negozi, o quantomeno se non si trova al primo colpo basta ordinarlo. Distribuito Audio Club, se non ricordo male. Etichetta, citiamo. Anzi, etichetta. No, distribuito Self. Esatto, sì. Self. E, il nostro sito al momento non è attivo, è attivo per la nostra pagina MySpace, che si chiama myspace.com, non voglio che Clara, / non voglio che Clara. E, è attivo una pagina Facebook, che credo sia Non voglio che Clara Official. Perfetto. Uh-huh. C'è anche il sito dell'etichetta probabilmente. E poi c'è la pagina MySpace dell'etichetta. Che là? Che è Sleeping Star Records. Perfetto, ok, benissimo. Quindi se vi vogliono contattare basta che vi cerchino qui, insomma, in questi... Sì, vabbè, c'è anche un indirizzo email che risponde a info@nonvoglioclara.it. Ok. E i concerti, allora? I concerti siamo in giro da gennaio. Prossime date? Saremo in giro fino a maggio, poi ci fermiamo una quindicina di giorni. E venerdì siamo a Cesena al Georg, e non George, Georg Best Club. Benissimo. E poi andremo al sud per una settimana, facciamo Lecce, Bari, poi saliamo verso Ascoli, probabilmente Pescara, Bologna, poi saremo a Firenze a fine mese, e poi saremo a Belluno. Patria vostra, che è la mia, la sì, vostra città. Una volta ogni tanto. Una volta ogni tanto vi fermate alla vostra un città. Un giro per l'Italia, insomma. Benissimo. Ci ascoltiamo qualcosa sì, dal vivo? Esattamente, se i ragazzi sono pronti, anzi sicuramente sono pronti, sono 23:46, abbiamo ancora un quarto d'ora abbondante prima della fine del programma, quindi abbiamo tempo. Cosa ci fai ascoltare? Allora, il prossimo pezzo si intitola L'estate. Ah, bella che la... è sempre un pezzo dell'album praticamente. Ok. Sempre qualche istante che si preparino e poi sarà Non voglio che Clara. Rumori di legni e ferraglia. All'olio del cane d'un canile, in cambio di una libertà maggiore, e ad agosto fra botte e sassaiole, per via della rivolta sindacale, restai solo senza cane e lavoro, restai solo con in bocca un gusto amaro. Quando poi settembre fu alla fine, non potendo dire qui sto bene, mi dissi qui meglio sparire, e ad ottobre pensai bene e per primo me ne andai a puttane. E tu quassù tornasti più quassù, ti interessava più niente, o forse non c'era motivo. Di fatto non tornasti più quassù, ti interessava più nessuno, nessuno. All'olio di del cane d'un canile, in cambio di una libertà maggiore, e ad agosto mi forzai di comparire sulle pagine di cronaca locale, con l'autunno che tardava ad arrivare, da qualche parte si doveva cominciare. Quassù tornasti più quassù, ti interessava più niente, o forse non c'era motivo. Di fatto non tornasti più quassù, ti interessava più nessuno, nessuno. Ci sarebbe da fare l'applauso, bravi, bravi, bravi, complimenti. Perché veramente anche sono bravissimi. Anche questo, a proposito di singoli potenziali, questo è il terzo singolo potenziale, se mi è consentito. Li abbiamo decisi tutti stasera. Esattamente. È una cosa che volevo fare, sottolineare, e i nostri ascoltatori lo vedono con le telecamere, è il microfono un po' particolare che usa Fabio mentre canta. Ricorda i microfoni di una volta della IEA, cioè la Rai, che si chiamava in un'altra maniera, con quel filtro davanti, o no, Davide? Sì, Sì, cioè della Dedair, proprio. Però è interessante, serve, cioè dà un certo, cioè si sente meglio, posso dire questo. Grazie. No, si sente molto bene con quel microfono là. Chiaramente questo filtro particolare, posso chiamarlo filtro oppure no? È un termine. È... In realtà serve semplicemente per attutire le frequenze basse. Ah, ok. Vedi, sono ignorante completo, devo scusare, però ho capito, adesso ho capito. Però. Sicuramente migliora l'intelligibilità, quindi si sente meglio. Ecco, perfetto, quindi dovevo arrivare a questo e sono arrivato a questo. Molto bene. 23.51, un pezzo molto bello questo qua, ripeto, questo ritornello, anche questo c'è un ritornello, ma in senso positivo, non in senso negativo. Prende, ti prende subito, entra nel circolo e ripeto... Può essere questo cosiddetto singolo, non esistono più i singoli, tutto quello che volete, abbiamo deciso in questo momento, però bello, a me piace particolarmente. La traccia numero 7, l'estate che sta arrivando, manca un po' di mesi, però arriverà anche l'estate chiaramente. E l'estate è un pezzo, possiamo dire tra Tenco e Endrigo, l'Endrigo dell'estate c'era sempre... Indigo ricordava spesso l'estate, anche Tenco nel suo ultimo anno. Io ho scritto, nella recensione abbiamo scritto che si avvicinava Tenco e La Cruz, secondo me. Chiaramente, solo idealmente, parlo idealmente. Io l'ho sentito così. Non so se sei d'accordo, puoi dire no, non sono d'accordo, ma niente è vero. No, no, ci sta, come lettura ci sta. Ecco, perfetto, ti ringrazio che ci sta questa lettura. 23.52, Agostino, cosa dici? Qua il tempo corre, però abbiamo qualcosa ancora a far sentire? Cioè, siccome vorrei sentire ancora un paio di cose loro, certo. Ti lascio la scelta, Fabio, vuoi una e una, due dal vivo, una dal disco? Facciamo una e una, e magari scegliamo ugualmente un pezzo acustico dal disco. Ah, ok. Che è la traccia numero 5. Che è la traccia numero 5. Gli amori di gioventù. Al quale sono particolarmente affezionato, anche se in effetti le occasioni per suonarla dal vivo in un set elettrico non sono tantissime. Ok, la sentiamo allora dal disco, traccia numero 5. Ok. Se ho chiesto a te o un'altra di fare un viaggio dopo la laurea, se ho baciato te o un'altra, sarà questa vita o un'altra. Ma bene, le tue mani sulla mia schiena, fra il dondolio di un'altalena, e mi chiedevo se vale o se ritornare sia tanto come restare per un altro errore. Oh, Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. La musica dei Non voglio che, Clara, me lo consenti una domanda, Fabio, che credo te l'avranno fatto in 500.000 persone. Da cosa nasce il titolo del vostro gruppo? Allora, in realtà nasce in maniera un po' casuale, come spesso succede nel momento in cui si dà il nome a un progetto. È una frase che in quel momento rubiamo ad un libro, ci piace, poi nel corso del tempo chiaramente perde anche il suo significato. Non ha mai avuto un vero e proprio significato, diciamo che il fatto di contenere la componente femminile, la negazione, l'esclusività, ci sembrava ci si abbinasse bene con la nostra musica, per cui l'abbiamo tenuto. Chiaro. Chiaro. No, è una semplice curiosità, perché tutti se, il titolo è un po' strano, di solito c'è una o due parole, invece voi è proprio è una, quasi una frase, insomma, completa. Insomma. Due cose velocissime, perché dopo mi sono imposto, stasera mi sono imposto, ho voluto, prima che i ragazzi di suonare l'ultimo pezzo, di far sentire da disco, chiaramente dal video non si può fare purtroppo, Gli anni dell'università, che è un pezzo che per un mese consecutivo va in onda dalle nostre frequenze. Io mi sono innamorato perdutamente di questo pezzo, musicalmente parlando, è un pezzo molto bello. Dovevo citare solo due cose, ma mia Giulia Schettini e Diana Tegera, che fanno parte dell'album come ospiti praticamente. Citiamo un momento chi sono due cantanti. La prima, mia Giulia, è la cantante di un gruppo romano che si chiama Palomino Blitz. La seconda è una cantautrice di Roma. Sì, che ha fatto dei pezzi anche per Tiziano Ferro. Sì, lei è un'autrice, ha scritto delle cose per Tiziano Ferro. Niente, ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, è nata comunque un'amicizia. Certo, quindi hanno partecipato al disco. È una stima reciproca. Certo, certamente. Lavoro, per cui... Okay. Vi leggo due o tre messaggi che sono arrivati. Marco da Firenze dice: complimenti per la vostra musica, cercherò di venirvi a sentire in qualche serata che farete nelle zone sue. Siamo al Viper a fine aprile. Benissimo. Poi Giuliana da Bologna dice: io vi ho già sentiti qualche tempo fa, siete sempre meravigliosi da riscoprire. Grazie. Non ha detto dove. Poi c'è questo messaggio molto simpatico, te lo leggo così come sta. Dice: un whisky e un pezzo di cioccolato e la dolcezza di questa musica, che meraviglia. Non si è firmato, non si è firmata, non sappiamo se è maschio o femmina. Comunque è molto, molto bello questo. Ti identifichi in questo che dice? Nel whisky, sì. Sì. Non nella cioccolata. E poi Claudia da Milano vi fa i complimenti, insomma. Grazie. Agostino, abbiamo deciso di far questo, lo so che impongo, ma ho imposto. Facciamo sentire da disco Gli anni dell'università, che è la traccia numero 4, e poi i ragazzi termineranno lo show suonando, chiaramente. E quindi vuoi che la facciamo ascoltare subito? No, prima sentiamo la traccia numero 4, se è esatto. Ok. Lo so, tu non hai niente che non va, eri già molto meglio di me, molto prima di me. Ma porti con te il tormento di tutte le cose che a stento del tutto capisco e che mi rendono stanco. E con i nostri cuori affaticati e dietro la lealtà dei nostri visi siamo finiti con l'esser divisi. Padova, Bologna, gli anni dell'università, Amsterdam, i Red Ones Farm, chiedendomi se ti piaceva. E con la novità dei miei sorrisi siamo rimasti sempre più divisi. Poi dentro i nostri letti separati e dentro i tuoi segreti e il tuo silenzio ho finito per mostrare il fianco. E così Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eh sì, abbiamo finito, sono 23, cioè 24 e 5 minuti primi, abbiamo concluso questa bella cavalcata con Non voglio che Clara, abbiamo presentato Dei Cani, il loro nuovo album, e abbiamo parlato di loro, musicalmente parlando, e non solo musicalmente parlando. Mi sono imposto, ho fatto sentire Gli anni dell'università, secondo me è un pezzo meraviglioso, e adesso tocca a voi concludere in bellezza, suonando chiaramente. Vecchio, nel senso che risale a un periodo precedente al primo disco, si intitola Dall'oggi al domani. Perfetto, grazie ai Non voglio che Clara, quindi a Igo e a Fabio. Agostino, grazie. Io e te ci vediamo domani. Io e ci sentiamo domani. Ci rivediamo e ci risentiamo sempre qui, sempre con un altro gruppo, questa volta della zona di Padova, si chiamano Spazi Immensi. Dalle ore 21 domani, eh? Eh sì, alle 22.30, dopodiché ci sarà Alberto Prisco con la sua classifica di musica rock e il suo programma di musica rock, assolutamente da non perdere. E niente, auguriamo un buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto e con una buonanotte ovviamente anche, e ci risentiamo domani sera. Buonanotte a tutti e grazie, Non voglio che Clara. Ciao, ciao, ciao. Sto meglio di me, io so rinunciare a tutto meno che a te, e tu hai ragione anche quando si tratta di scegliere, ma ci vuole coraggio a buttare via tutto. qualche modo tireremo fine mese. Ho il difetto di insistere, l'abitudine a perdere, e questa mia fedeltà è più quello che logora. Se ci vuole coraggio ad andare in fondo, dall'oggi al domani non rispondere se chiami, dall'oggi al domani. Dall'oggi al domani non rispondere se chiami, dall'oggi al domani. Rock Wave, l'onda del rock.